in amarone, in ogni porto ce n'è una buona, ogni porto una scazzottata, la licenza desiderata, il tenente ci toglierà. Marinai, donne e guai, quando arriva l'equipaggio, vanno tutti all'arrembaggio di ragazze e cabaret. Marinai, donne e guai, e la ronda gira gira per poterli sorvegliare, questi diavoli del mar. Sotto capo ci perdoni, maresciallo, per favore, dopo mesi di alto mare, questo è il men che si può far. Marinai, donne e guai, quando arriva l'equipaggio, vanno tutti all'arrembaggio di ragazze e cabaret. Marinai, donne e guai, e ogni volta c'è qualcuna che si asciuga un lacrimone salutando da laggiù. Sotto capo ci perdoni, maresciallo.